si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno Alessio Maurizi, ben ritrovati con Si può fare insieme fino alle 11. Un'occhiata veloce alle prime pagine dei giornali di oggi, per chi non avesse già invece ascoltato con più tranquillità la rassegna stampa fatta un'oretta fa circa dalla nostra Giulia Crivelli. Poi lo spazio del domenicale naturalmente e dopo il giornale radio delle 9 cominceremo con le nostre interviste, parleremo anche noi questa mattina di immigrazione ma anche di come cambia, al di là dell'emergenza immigrati alle nostre frontiere che pure c'è, di come cambia l'Italia grazie anche a questi nuovi cittadini. Saremo in una piccola comunità del Friuli dove due diverse maggioranze si sono create, la maggioranza politica della città guidata da un sindaco leghista con insomma le note posizioni della Lega sugli immigrati, invece la maggioranza dei ragazzi delle scuole medie di questa piccola comunità friulana che ha eletto un rappresentante albanese. E così insomma i nuovi cittadini stranieri che danno un contributo anche appunto nelle nostre piccole comunità in Friuli, dove pure l'emergenza degli immigrati è grossa, perché sapete che al di là degli sbarchi, molti, moltissimi sono quelli che passano dalle frontiere con l'est. Questo però dopo il giornale radio delle 9. Adesso cominciamo, come detto, con i giornali di oggi. Vai! Allora, subito anche i nostri contatti, se volete interagire con noi, la pagina Facebook Si può fare trattino Radio 24, l'account Twitter Si può fare 24, il mio Ale Maurizi, 349-238-6666, se invece volete scriverci un SMS, poi, come detto, dopo il GR delle 9 apriremo anche il numero verde per i vostri interventi. Giornali che naturalmente riportano a piene mani notizie su quello che sta accadendo, soprattutto in questo momento alle frontiere, in particolare a Ventimiglia, frontiera con la Francia, ma anche, dicevamo, in Friuli, anche alla frontiera del Brennero e poi anche tutte le ripercussioni politiche. Cominciamo con il Corriere. Renzi, due punti, virgolette, battaglia forte in Europa, e c'è un'intervista al Presidente del Consiglio Renzi che parla soprattutto di immigrati. Vedremo tra un attimo La Stampa, pronta la bozza europea sui rimpatri, quindi si discute anche di come l'Europa sta affrontando o non sta affrontando forse soprattutto questa questione. Altri titoli in ordine sparso, il Giornale che insomma attacca il modo in cui il governo sta gestendo questa vicenda, tutte le balle sugli immigrati, quello che la sinistra non dice. Il Messaggero invece riprende la Renzi, migranti, Renzi la sfida alla Francia, Parigi chiude la frontiera a Ventimiglia, alta tensione coi profughi, il Premier dice che è un atto grave. Vediamo rapidamente l'intervista del Corriere al Presidente del Consiglio, che dice: le risposte che l'Europa sta dando sono insufficienti, redistribuire solo 24.000 persone è quasi una provocazione, perché sapete che diciamo rispetto alla famosa agenda europea sull'immigrazione che avrebbe dovuto prevedere quote di profughi da redistribuire in Europa, inizialmente era diciamo una previsione ampia, poi è stata limitata a 40.000 di questi profughi, di cui 24.000 dall'Italia, 16.000 dalla Grecia, ma anche solo su questi 40.000 ci sono le resistenze di diversi paesi europei. Prosegue Renzi e dice: nei prossimi giorni ci giochiamo molto dell'identità europea, la nostra voce si farà sentire perché è forte la voce di un paese fondatore, cioè l'Italia. Se il Consiglio europeo sceglierà la solidarietà, bene, cioè si aprirà a questo tema delle quote. Se invece non lo farà, abbiamo pronto il piano B, ma sarebbe una ferita innanzitutto per l'Europa. Sappiamo, anche se non è stato detto chiaramente, che questo piano B consiste nell'accelerare sui rimpatri, i rimpatri degli immigrati. Però sulla questione dei rimpatri c'è da dire, l'intervista di Renzi prosegue sul Corriere, se volete la leggete tutta, insomma ci sono vari anche altri temi su come voterà per esempio il PD sulla richiesta di arresto per Azzolini del nuovo centrodestra, Ma queste sono altre questioni. Sul tema dei rimpatri, dicevamo, Corriere, sempre con Dino Martirano, scrive giustamente: due agenti per ogni migrante, quelle espulsioni da semplificare. E ci ricorda appunto quali sono le regole oggi per espellere un immigrato irregolare. Le procedure sono queste: entro 90 giorni va contattata l'autorità consolare del paese di provenienza, presunto, perché spesso i documenti non sono a disposizione delle autorità italiane, ma insomma il paese presunto, che procede all'intervista del cittadino extracomunitario e poi alle verifiche. Poi c'è il viaggio di ritorno con relativi costi, due agenti per ogni migrante riammesso, che, cioè riammesso nel senso che è stato deciso che può essere rispedito nel paese di provenienza. Quindi due agenti, una cosa che certo non facilita un compito delicato. Morale, il meccanismo produce scarsi effetti. Nel 2014, l'anno scorso, su 15.000 decreti di espulsione ne sono stati effettuati, eseguiti il 35%, cioè uno su tre. Gli altri ovviamente sono in giro, dove? Per l'Italia, ma anche insomma, cercano di raggiungere gli altri paesi. Lo sapete, la Francia, l'abbiamo detto, c'è il caos alle frontiere, ma anche il Brennero. La questione europea, affrontata dalla Stampa: pronte le regole europee per i rimpatri, ma sulle quote non c'è accordo. Cioè, sembra che insomma il piano B, quello di spingere sui rimpatri e non di, diciamo, non il piano A, quello di aprire a queste quote di distribuzione degli immigrati e dei profughi in Europa, che avrebbe alleviato di non poco la posizione dell'Italia e della Grecia, ma soprattutto dell'Italia, che sta vivendo una vera emergenza di sbarchi e di richiedenti diritto d'asilo. Ecco, su questa questione l'Europa continua a tacere, invece si va verso un accordo per i rimpatri. Gli stati devono mobilitare, questo è, diciamo, il virgolettato della bozza di risoluzione, gli stati devono mobilitare ogni mezzo per promuovere la riammissione dei migranti economici illegali nei paesi di origine e transito. Vuol dire far funzionare al meglio le regole entrate in vigore a fine 2010, meglio di come sia andata sino ad ora, visto che meno del 40% dei respinti lascia effettivamente le sponde dell'Unione Europea. Cioè il problema che dicevamo prima dell'Italia, per cui solo il 35% dei decreti di espulsione viene effettivamente eseguito, è lo stesso che ha tutta l'Europa. Si vuole migliorare questo meccanismo per rimandare in patria gli immigrati economici illegali, cioè non quelli che fanno richiesta d'asilo, che vengono dalla Siria, che vengono dalla Palestina, che vengono dall'Eritrea, eccetera, eccetera. No, tutti quegli altri immigrati per ragioni economiche, si cercherà di rimandarli nel loro paese. Che altro? C'è una storia, per esempio, che su Repubblica, che illustra un po' quello di cui stiamo parlando. È la storia di questo ragazzo di 15 anni, Nizar, che viene dalla Siria ed è partito con i fratelli. Lui ha 15 anni, è partito con due fratelli, un fratello di 12 anni e un cugino di 17. Perché siete scappati? Per la guerra, non c'è più speranza nel futuro nel nostro paese, parla della Siria, solo distruzione e massacri. Io non voglio fare il militare, dove sei costretto a uccidere oppure vieni ucciso. Quanti soldi avete speso per fare la traversata? $7,000 in tutto, no, a testa. Quindi $7,000 in tre a testa sono $21,000, pensate, tre minorenni. I risparmi della nostra famiglia abbiamo speso. In Germania abbiamo gli zii, vogliamo raggiungerli, cominciare a lavorare, studiare un po' e poi far venire anche mamma e papà. È la solita storia, insomma, arrivano in Italia passando per esempio per la Turchia, sbarcando in questo caso a Crotone, ma vogliono andare in Germania. Poi che è successo? Insomma, racconta come e perché sono finiti nelle mani della polizia. Abbiamo conosciuto un egiziano che ci ha promesso di portarci in Germania. Eravamo un po' diffidenti, ma ci aveva convinto con un furgoncino. Saremmo arrivati fin lassù, gli abbiamo dato €400 a testa. Lui però si è preso i soldi e poi ha chiamato la polizia ed è scappato. Adesso, appena la frontiera con la Germania finirà la sospensione di Schengen per il G7, ci riproveranno, perché al momento invece sono stati respinti dalla frontiera dagli austriaci. Infatti dice Nizar: ieri sì, gli austriaci ci hanno respinto, ci hanno scoperto sul treno, ricacciato in Italia, ci hanno trattato male, urlano, ti strattonano, ma noi non capiamo nemmeno che cosa dicono. E questa è una delle tante storie di questi migranti. Ancora sulla stampa, per cambiare notizia, parliamo di lavoro. C'è l'intervista al ministro del lavoro Poletti, che a proposito di questo mistero dei numeri, insomma, numeri in crescita di occupati o solo contratti che cambiano da precari a stabili, nuovo contratto tutela crescenti, anche per i sgravi fiscali, circa 8.000 euro a dipendente che ci sono sulle aziende, punto di domanda, risponde Poletti. I contratti stabili sono quasi raddoppiati e in effetti Poletti dice: il dato certo è il cambiamento qualitativo, che credo sia irreversibile. Ormai da 4 mesi i contratti a tempo indeterminato aumentano in maniera significativa. Prima, su 100 avviamenti a lavoro, 85 erano precari, quindi teniamo a mente 85 precari, 15% stabili su 100. Oggi siamo arrivati al 25-27% di contratti stabili. In pratica abbiamo quasi raddoppiato. Però, da questi numeri, non sembra che sia cresciuto il numero degli occupati, cioè è cambiata la qualità dell'occupazione da precari a contratto a tutele crescenti. Sull'occupazione più in generale, Poletti dice: vediamo, bisogna essere cauti. Segnalo però che la cassa integrazione da mesi è in calo e quando si sarà compressa questa fascia ci sarà finalmente anche un aumento delle assunzioni. Quindi Poletti, ministro, dice: aspettiamo, per ora sta cambiando il tipo di assunzioni, ma con la cassa integrazione che sta calando, prima o poi ci saranno anche le nuove assunzioni. Questo, diciamo, parola del ministro Poletti. Ci fermiamo per una pausa sul traffico, torniamo tra pochissimo. Allora, sono le 8 e 49 minuti, è il momento a quest'ora della domenica mattina di tirare un po' il fiato, insomma, questi temi dell'immigrazione, quest'ansia che sale, che cresce. Armando Massarenti, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno, buona domenica a tutti. Curatore, responsabile, direttore del domenicale, inserto culturale Il Sole 24 Ore. Insomma, se è possibile facci sognare, insomma, in questi pochi minuti del GR. Beh, ritroviamo, allora, per sognare niente di meglio del titolo che diamo alla copertina. Riaccordiamoci con il mondo, no? Perché poi vediamo un signore nella immagine che appunto sembra accordare, anche se in maniera un po' strana, un pianoforte. E perché la copertina è una bellissima riflessione di Remo Bodei, uno dei nostri più importanti filosofi, che appunto ci parla della filosofia della musica ed è un testo che inaugura una serie di 5 meditazioni filosofiche sul tema, appunto, parlavi di migrazione, identità, differenze e conflitti, in un festival sullo spirito della musica che è organizzato dalla Fenice di Venezia. Ecco, questo testo, devo dire, ci può veramente riappacificare col mondo, perché parla proprio di ciò che è di maggiormente vicino a quella che l'armonia ha prodotto l'umanità. Vediamo come inizia il testo di Remo Bodei: la musica congiunge il massimo rigore formale con il massimo di emotività, esattezza e indeterminatezza, ragione e passione non solo non si escludono, ma sembrano anzi potenziarsi a vicenda. E poi si parla di tutta la storia, di che dai pitagorici fino alla costruzione della musica moderna ha visto appunto in questa armonia, nella misura, nell'idea di misura, appunto la costruzione della musica. La modernità poi ha cercato di infrangere, no, con varie avanguardie questa armonia, ma senza riuscirci del tutto. Quindi Remo Bodei ci mostra come proprio da questa idea molto, molto filosofica, molto legata anche alla matematica, e da questa armonia possiamo riprendere a fare un discorso che poi è quello di questo festival di Venezia, no? Di come le identità delle varie anche anime musicali del mondo possono ricongiungersi. Quindi riaccordiamoci col mondo, questo forse è il nostro motto in momenti appunto difficili, dove sembra che questa armonia non la si trovi tanto nella realtà. Questa è la copertina. Poi ma inviterei un'altra riflessione in questo senso. La mia rubrica parla di un grosso convegno che si terrà al San Raffaele con Margaret Gilbert, che parla proprio di una cosa un po' strana, che è l'ontologia sociale, no? Cioè che cosa hanno a che fare tanti oggetti diversi, che sono oggetti sociali, insomma, di cui si occupa, peraltro invece è proprio una branca della filosofia che è appunto l'ontologia sociale. Cioè l'ontologia significa che cosa sono le cose di cui parliamo, ma qui le cose sono complicate, perché sono i diritti, i permessi, appunto magari i permessi di soggiorno, le obbligazioni, le autorizzazioni, i doveri, ma poi anche, non so, le partite di calcio, le squadre di calcio, le band musicali, i contratti di lavoro, gli oggetti di vario genere, unificati da una discussione che si intitolerà Joint Commitment, intenzionalità collettiva, fiducia e obbligo politico. C'è una riflessione a tutto campo su quando noi possiamo dire la parola noi, appunto, cioè quando legittimamente possiamo dire noi stiamo facendo qualcosa, noi stiamo agendo come un gruppo, che tipo di intenzioni ci sono rispetto a quelle individuali, dove è chiaro che c'è una persona che agisce ed invece è un gruppo. Allora, un esempio molto semplice che fa la Gilbert: io sto facendo una passeggiata, tu stai facendo una passeggiata, ci incontriamo e dico posso unirmi a te, se tu acconsenti allora potremmo dire che noi stiamo facendo una passeggiata, altrimenti non potremmo dirlo. Ecco, questo è un modello semplicissimo per spiegare moltissime delle nostre interazioni sociali, anche tutte quelle cose che riguardano la normatività sociale. Poi sempre, ma rimanendo, ma insomma andando un po' qua e là nelle pagine, c'è una bella pagina di Carola Barbera, una giovane filosofa, che ci parla del coraggio. Sono usciti ben due libri su questa virtù, insomma. Umberto Ambrosoli. Ah sì, questo è molto si può fare, molto si può fare, che appunto si intitola entrambi Coraggio, questi libri, quello di Umberto Ambrosoli, sì, che conosciamo tutti, e un altro di Hubert Sossi e Valeria Zacchi, quest'ultimo uscito per Mursia, quello precedente uscito per Il Mulino. Insomma, basta dire il titolo: il coraggio ce lo si può dare. Ci ricordiamo tutti della battuta di Don Abbondio nei Promessi Sposi di Manzoni, che diceva: il coraggio uno se non ce l'ha mica se lo può dare. Ecco, invece questi bei saggi che cercano di dimostrare che può essere l'opposto, ma è l'opposto e lo deve essere proprio nella nostra vita quotidiana, nel nostro modo di lavorare. Dobbiamo avere il coraggio di fare le cose nella maniera appropriata, e questi saggi ci dimostrano che non è poi così difficile, e anche se uno non ce l'ha, basta seguire poi gli esempi di quelli che ce l'hanno e lo si ritrova abbastanza facilmente. Un motivo in più per acquistare oggi il Domenicale, il Certo Culturale del Sole 24 Ore in edicola, per questo bel articolo sul coraggio. Ce lo possiamo dare. Grazie Armando Massarenti, ci ritroviamo domenica prossima. Grazie per essere stato con noi. Noi invece ci ritroviamo tra poco, dopo il giornale radio, conosceremo una strana coppia, un sindaco leghista e il rappresentante della comunità degli studenti albanesi. Siamo in Friuli. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Because you know I'm all about that bass, about that bass, bass, bass. And no, I won't be no stick figure, silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Bass, bass, bass, bass. Hey, hey. Di nuovo buongiorno ad Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno e buona domenica a tutti. Cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati. Oggi Milano Monterosa. Pioggerella. Anzi, minaccia pioggia. Sempre. Sufficientemente perché io decida di prendere un taxi senza senso di colpa. Quindi ringrazio Torino 83. Perché il senso di colpa? Cosa c'entra? È perché se non piove prendo un taxi, mi sento in colpa e sento mia mamma sul collo che mi dice: sei uno scialacquatore. Sì. Vedo che non hai letto il mio libro, perché ne parlo espressamente di questa questione, che io vado in taxi. Ho letto l'inizio, devo avere un momento di tranquillità. All'inizio io sono molto tirchio, perché da bimbetto ero tirchissimo quando avevo 8 anni, e poi invece sono diventato uno scialacquatore, quindi di solito vado in taxi addirittura anche a Stazione Centrale. Io abito vicino a Stazione Centrale e quindi ho promesso nel libro che invece sarei sempre andato a piedi, e quindi faccio sempre dei periscope dove mostro pubblicamente che vado a piedi in Stazione Centrale. La morale è che a Milano minaccia sempre pioggia e poi non piove mai, e questo è un vantaggio per noi. noi milanesi, magari che... meno per, non so, per l'acqua serve, ogni tanto l'acqua deve piovere, serve, no? Deve piovere. Cari ascoltatori, tu sei più saggio, che giustamente ne fai una questione dell'acqua che serve. Io lo invece che Milano, sono più prosaico. Lo sai che Milano è il comune più con territorio più agricolo che c'è. Sì, questo lo so perché l'abbiamo detto diverse volte. Invece a me in maniera più stupida mi fa sempre ridere il fatto che io vado a Il Sole 24 ore, però in quella mezz'oretta in cui mi sposto io diluvia, quindi 24 ore un cacchio. 800 24 00 24, cari amici, vi aspettiamo. Tra poco conosceremo una strana coppia. Ho detto così, il rappresentante della comunità politica di una cittadina del Friuli, il sindaco. Un sindaco della Lega, e parliamo di immigrati, di immigrazione, di come cambia l'Italia grazie al contributo anche di questi nuovi cittadini. L'altro elemento della coppia è il rappresentante degli studenti medi, un ragazzino albanese, d'origini albanese. Una strana coppia, divertente da ascoltare. È una notizia bellissima, bellissima. Sì, sì. E promettono, insomma, di collaborare questi due. Poi c'è il gioco. Certo che sì, c'è il gioco come tutte le domeniche. Non so come sia andata domenica scorsa il gioco, perché abbiamo avuto addirittura un paio di domeniche in cui non siamo riusciti ad assegnare il gioco e ci chiediamo se siamo diventati più cattivi noi o se voi siete Impigriti. Impigriti, esatto, non mi veniva una parola sufficientemente gentile. Allora, vai. Mettetevi lì proprio con i muscoli pronti da esibire, perché il primo indizio che vi vogliamo dare è questo: il personaggio della settimana non molla mai. Non molla mai. Ricordiamo sempre che noi cerchiamo un personaggio legato al quale c'è una notizia di questa settimana. Magari una notizia a stile si può fare, ma insomma una notizia di questa settimana. E il primo indizio è che non molla mai. 800 24 00 24. In questo posto non l'ho mica fatto apposta, è un parcheggio gigantesco con il divieto di sosta, per esempio quegli sguardi che ti sfiorano un momento e puoi quasi naufragarci nelle storie che hanno dentro. Ci sono giorni che ho la sensazione di averti detto tutto, poi succede qualche cosa che riapre la partita, è la strada che mi chiama e non posso farci niente, il mio posto è nel mondo tra le voci della gente, partirò. Sempre questa voglia di vedere, di andare dove portano le strade. E là in fondo cosa c'è? E là in cima cosa c'è? E se è vero che si vede un panorama che pacifica il cuore, fa esplodere il cuore in 7 miliardi di pezzi senza dolore. 7 miliardi, la canzone di Jovanotti, è l'ultimo album, una canzone che, cioè, l'avete sentito, parla del viaggio e quindi in qualche modo anche di come cambia il mondo con il viaggio e quindi del mondo dei migranti. C'è molta cronaca su questo versante perché, insomma, i giornali sono pieni, i telegiornali, e anche di immagini un po' così, un po' scioccanti. Terrorizzanti, direi. Sì, il tentativo di spaventarci tutti. No, ma anche una situazione complicata alle frontiere tra Italia, Francia, Austria, Germania. Sta diventando una situazione un po' complicata, oggettivamente. Noi vogliamo parlarne, ma in un altro modo, in un altro spirito. Io l'ho già detto, saluto e gli do il benvenuto intanto a Dorino Favot. Buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno ai radioascoltatori. Buongiorno. Sindaco di Prata, in provincia di Pordenone, siamo ovviamente in Friuli. E poi diamo il buongiorno anche a Simon Ghizzeli. Ciao Simon. Buongiorno. Buongiorno Simon. Simon è un bambino, un ragazzino di... quanti anni hai, Simon? 13 anni. È un ometto ormai, è quasi il vice sindaco, quindi è un ometto. Esatto, ed è stato eletto dai suoi compagni di scuola, diciamo delle scuole medie e dell'ultimo anno delle elementari, come alla guida del consiglio comunale dei ragazzi. È il sindaco dei ragazzi. Sindaco dei ragazzi. Intanto complimenti, Simon. Grazie mille. Io è la prima volta che intervisto due sindaci insieme, quindi sono molto emozionato. La cosa bella è che, insomma, in qualche modo la stampa locale ha così voluto evidenziare subito questo contrasto, no? Il sindaco leghista che sugli immigrati ha una posizione molto netta, cerchiamo di respingerli, cioè l'invasione, eccetera, eccetera, e insomma il ragazzino albanese, di origine albanese, ma ormai tu sei nato in Italia, vero Simon? Sì, sì. quindi diciamo di fatto italiano, ma anche su questo entreremo, perché il tema della cittadinanza è ancora un'altra cosa. Intanto, sindaco, le voglio chiedere una cosa preliminare, mi rifaccio alla cronaca. Si parla appunto in queste ore molto anche del tema delle frontiere di terra, perché... devi precisare quando dici sindaco, devi dire sindaco grande, sindaco o grande, sindaco piccolo. Bravo. Sindaco grande. Siamo uno due sindaci. Abbiamo una Lampedusa anche al nord, ed è il Friuli, cioè c'è un'emergenza di migranti che passano via terra, e su cui forse per ora si è concentrata meno l'attenzione di quello che si è fatto sugli sbarchi su Lampedusa, è così? Sì, è vero, purtroppo stiamo vivendo a livello di ANCI regionale un problema di portata impressionante, dove si vedono arrivare stranieri dai confini dell'Austria, della Slovenia, e ogni giorno nelle città più grosse come Udine, Trieste, Gorizia, che guardano al confine, e Tarvisio stessa, si trovano a dover fronteggiare delle situazioni veramente difficili, di dover sistemare questi cittadini che non riescono a trovare una collocazione. E al momento, diciamo, nella vostra comunità, o anche riferendosi alle altre città, Pordenone, Udine, qual è la situazione? Perché c'è questo tema. Beh, poi... diciamo che per quanto riguarda l'udinese, sì, stanno cercando di risistemare delle vecchie caserme dismesse, sì, e quindi di cercare di sistemare queste persone. A Pordenone c'è un discorso più per quanto riguarda la curia, che cerca di dare delle risposte, oppure degli alberghi nel territorio provinciale. Nel caso specifico di Prata di Pordenone, ad oggi non abbiamo problematiche di questo genere. Non abbiamo arrivi, ma anche perché non abbiamo nemmeno strutture, in realtà. Ecco, ma per quanto riguarda invece l'appello che è stato fatto da due presidenti del suo partito, del Veneto e della Lombardia, a non voler accogliere ulteriori immigrati, il presidente del Friuli, Serracchiani, invece, che appartiene al PD, ha avuto un approccio un po' diverso. Lei vuol dire qualcosa a questo punto di vista? Cioè, la sua comunità è disposta ad ospitare qualcuno di questi richiedenti diritto d'asilo in transito, cioè dare una mano a questa questione di solidarietà interna all'Italia? Ma guardi, allora, se si tratta di dare una mano a chi si trova in difficoltà, nulla questio, però se si tratta di strutturare un qualcosa che significa accogliere in maniera indistinta e indiscriminata, diventa una sorta di problema, perché diciamo che il problema, che è di carattere politico nazionale, va a ripercuotersi su un normale svolgimento dell'attività quotidiana delle nostre comunità. Quindi capisce che si ripercuote un problema che dovrebbe essere in qualche modo affrontato, risolto a monte, e parlo di politiche nazionali per non dire europee, e noi sindaci ci troviamo, sì, a dover... Però c'è una cosa, scusi, che io non capisco nella posizione della Lega, ed è questa. Come lei giustamente dice, siamo aperti alla solidarietà nell'emergenza, quindi diciamo nell'immediato siamo disposti a dare una mano, e questo mi sembra già una cosa importante. Però come si fa a chiedere all'Europa di assumersi quote di richiedenti diritto d'asilo, di profughi negli altri paesi, quando poi all'interno, diciamo, tra le regioni italiane, all'interno dell'Italia, invece questa solidarietà non si vuol mostrare, non è incoerente, non è un messaggio un po' incoerente? No, è proprio per quello, perché ho l'impressione che l'Italia a livello europeo non venga ascoltata per nulla, per cui a questo punto non vorrei che si dovesse distaccare. Però, sì, a livello politico, e sì, dire vabbè, a questo punto decido io, devo chiudere le frontiere, le chiudo se necessario. Sì. Però, questo è un po' il discorso. Diciamo, la voce dell'Italia in Europa si indebolisce, secondo me, se all'interno del nostro paese non c'è coerenza sul tema della solidarietà, perché chiedere solidarietà alla Francia e alla Germania quando il Veneto e la Lombardia non sono disposti a esercitarla sulla Sicilia, io lo vedo come un elemento di incoerenza. Poi chiaramente ognuno resta delle sue opinioni, sì, però... ma è una conseguenza quasi. Va bene. Non dobbiamo convincerci l'un con l'altro, non importa. No, no. Adesso però parliamo anche con Simon. Simon, intanto di nuovo complimenti per essere il sindaco degli studenti, dei ragazzi di Prata. Perché ti sei candidato? Come ti è venuto in mente? Ti hanno spinto, ti hanno tirato in mezzo o è stata una tua idea, una tua volontà, Simon? È stata una mia idea. È cominciata in quinta elementare quando sono diventato un consigliere. Quindi hai già una carriera alle spalle. Ha già un curriculum, caro mio. In confronto io che sono uno stagista qui in radio, sono molto orgoglioso. Vai avanti, scusa Simon, ti ho interrotto. Diventato consigliere, ero in una lista di un mio vecchio amico. Sì. E che però poi ha perso alle elezioni. Bello che a 13 anni uno può già avere un vecchio amico. Un vecchio amico e aver già perso delle elezioni anche. Ragazzi. No, scusami, quindi lui ha perso le elezioni e quindi tu non sei entrato? Sì. Ah, ok. E poi invece dopo hai recuperato adesso. Sì, ho puntato qualcosa di più in alto e ho pensato di diventare sindaco. E il tuo vecchio amico era candidato anche lui? O l'hai abbandonato per strada? No, lui adesso era in terza quest'anno. In terza media? Sì. E tu invece che classe fai, Simon? La seconda. La seconda. Sai, poi la politica è una battaglia, quindi anche le amicizie si possono incrinare. Però bisogna mantenerle le amicizie in politica. Simon, qual era? Ce l'avrai avuto un mini programma per in qualche modo essere eletto? Perché anche hai preso il 70% dei voti, quindi sei riuscito un po' a coinvolgere, a convincere i tuoi... Sì. Le votazioni penso di averle prese per alcune delle idee proposte. Sì. Però la più voluta dagli alunni erano i distributori di merendine. I distributori di merendine? Perché qual è il problema dei distributori di merendine? Ecco, spiegaci. Noi a scuola non possiamo usarli, i distributori. Eh sì, perché scusami, ma c'è tutta una politica su come si deve gestire l'alimentazione nelle scuole elementari e medie, per cui bisogna stare attenti a mettere solo cibo sano, eccetera, eccetera. Invece tu sei partito secco dicendo più merendine per tutti, in pratica. Sì. Hai preso dei voti. Ma scusa, ma No, ma veramente con più merendine per tutti? Più o meno. Sì, più o meno sì. Ah, sì. No, è uno slogan, di berlusconiana memoria, se possiamo dire. Più merendine per tutti, è proprio... Siamo su quello. Siamo quasi su un milione di posti di lavoro. Ma tu, Simon, magari non sa nemmeno bene Berlusconi. No, perché ma come Berlusconi... no? Ma a 13 anni, mica è un bimbo. Lo conosci Berlusconi, sì? Sì, sì. Beh, lo conoscono tutti. Però diciamo che quando era in auge politicamente, tu eri veramente un bambino, qualche anno fa. Simon, voglio chiederti, tu sei nato in Italia da genitori albanesi, è vero? Sì. Hai la cittadinanza al momento? Sì. Ok. Sì. L'hai avuta fin dall'inizio? No. Dopo. Nel 2009. Ok. Quindi, 6 anni fa, quando avevi 7 anni. No, scusami, ma i tuoi genitori l'avranno avuto nel 2009? Perché tu sei nato in Italia. Sì. Quindi tu sei cittadino italiano a tutti gli effetti, sei nato qui, è giusto? Sì. No, un momento, no. Scusa, non è che il bambino nato in Italia ha la cittadinanza italiana, non esiste questo in Italia. Tu hai avuto la cittadinanza quando? Scusa, adesso facciamo parlare anche... Nel 2009. Nel 2009, 6 anni fa. Ci sono delle procedure, ogni caso è un po' diverso dall'altro, ci sono delle regole, però quello che mi interessava capire era un po' il tema: un bambino, sentite, parla italiano, diventa addirittura il rappresentante, il sindaco dei ragazzi, però di fatto tu ti senti ancora un po' albanese perché i tuoi genitori lo sono, o ti senti, è difficile rispondere a questa domanda, immagino, un po' come quando ti chiedono se vuoi più bene a mamma o a papà, no? È impossibile rispondere. Mi sento sia italiano e sia albanese. 50-50, 50%, sì. Proprio pari, perfetto. Sindaco, sindaco grande. Quello grande, sì. Eccolo. Lei appena è stato eletto Simon, ha detto in qualche modo, sì, dai, dobbiamo collaborare, un ragazzo in gamba, grinta, nessun problema. Però, per uno esponente della Lega... com'è avere un piccolo collega albanese? I tempi sono cambiati un po' rispetto forse a qualche anno fa. Ma sicuramente sì, tenga presente che qua da noi sa che Prato di Pordenone è all'interno del triangolo del Monte, no? Sì. Ed è ricco, è stato, diciamo, ricco di attività produttive nel campo del mobile, per cui c'è stata sempre un'attrazione dall'esterno di lavoratori, no? Sì. Oggi come oggi abbiamo più del 16% di popolazione straniera, noi abbiamo 8.500 abitanti, di questi il 16%, anche più, sono appunto di origine straniera, e di questi la maggior parte sono rumeni e albanesi, no? Sono tutte persone perfettamente integrate, che lavorano, che hanno la loro famiglia, che fanno la loro vita e che quindi non... Cioè, quindi su questo tipo di immigrati lei dice non c'è nessun tipo di problema da parte della Lega. Cioè, qua non c'è nessun tentativo di andare a scardinare determinate cose, qua c'è una perfetta integrazione, per cui anzi ben vengano queste cose. Tra l'altro nel nostro programma di mandato avevamo previsto proprio di rinforzare la collaborazione con le scuole e di lavorare soprattutto su programmi di stretta attualità, quindi per esempio abbiamo creato la giornata dello sport, quest'anno come termine di anno scolastico c'è stato il progetto Expo, quindi visto che ce l'abbiamo qua in Italia a Milano, ben venga, e poi la prosecuzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, quindi è stata una campagna elettorale del Consiglio Comunale dei Ragazzi assolutamente interessante. Tenga sì. presente che c'è stata una presentazione delle tre liste, quindi oltre ai Simon c'erano le altre due liste, al Teatro Pileo, che è il nostro teatro qua, e Simon, devo dire, è stato il ragazzo più spigliato, più sveglio, più fresco, più bello da sentire. Ma non trova, fra l'altro non è l'unico diciamo di origini straniere eletto nel Consiglio Comunale degli Studenti, ho visto i nomi, ci sono almeno un altro paio di nomi stranieri. Non pensa che a volte questo, diciamo, anche proprio la storia, la biografia di un bambino che in qualche modo con genitori stranieri in Italia, attraversando questa fase dell'integrazione, dovendo superare comunque delle difficoltà aggiuntive rispetto sicuramente anche magari a bambini nati da famiglie italiane, abbia magari una marcia in più, una motivazione in più, capita a volte anche nello sport, può essere questa un'arma che lei vede nel carisma di Simon? Ma io vedo più che altro un ragazzo molto intelligente, molto sveglio, per cui ha colto nel segno, tra l'altro nei vari punti del programma ce ne sono tantissimi, vabbè, escludendo la parte del mantenimento, del miglioramento degli edifici scolastici, come giusto che sia, però ci sono tutta una serie di punti che coincidono col nostro programma elettorale, che vanno dalla raccolta differenziata alla tutela del territorio, dell'ambiente, la sensibilità sulle piste ciclabili piuttosto che sulla sistemazione dei marciapiedi, tutte cose che proprio hanno colto nel segno quello che è proprio la necessità del territorio, quindi vuol dire che c'è proprio di fondo una intelligenza e sensibilità nel cogliere un po' quello che deve essere il sentimento del Consiglio Comunale dei Ragazzi, cioè creare questa sorta di coscienza civica del bene comune, di quello che può essere servizio. Cioè, non c'è nessun timore sul fatto che ci possa essere un'invasione, sul fatto che ci possano rubare il lavoro, sul fatto che ci possano rubare la mestiere della politica, su cose che sentiamo dire spesso dai suoi colleghi di partito. Ma ben venga se ci rubano il mestiere della politica. No, ma guardi, glielo dico provocatoriamente, perché molti suoi colleghi di partito invece in altre situazioni, magari nei talk show dove c'è bisogno di prendere qualche consenso in più, spesso e volentieri sugli immigrati queste robe le dicono. Ma questa è gestione pura amministrativa delle cose quotidiane, quelli sono argomenti politici di carattere generale, no? Ma le faccio un esempio: in quanti casi in giro per il mondo, a cominciare dal Belgio, ci sono avuti dei personaggi, ministri o addirittura primi ministri che erano di origine italiana, e gli italiani quando emigravano tanti anni fa erano trattati non a pesci in faccia, molto peggio. Quindi, ma sullo ius soli a questo punto, anche in virtù di una storia come quella di Simon, lei sarebbe d'accordo? Perché lui la cittadinanza l'ha avuta dopo qualche anno, io non so in virtù di quale percorso, però oggi un bambino nato in Italia a genitori stranieri non automaticamente ottiene la cittadinanza, cosa che invece secondo alcuni, secondo molti, dovrebbe essere. Prendiamo il caso di Simon. Allora, innanzitutto io credo che nel caso di Simon ci sia stato il riconoscimento della cittadinanza dei genitori, no? Quindi passato il tot termine di anni, e a quel punto, subito dopo, fatto il giuramento, ottenuta la cittadinanza, chiedono anche la cittadinanza per i loro figli. Credo che sia successo in questo modo qua. La regola che c'è oggi invece prevede appunto il compimento dei 18 anni e so che mi pare un paio d'anni fa appunto c'è stata questa modifica normativa che ha previsto proprio l'obbligo da parte degli uffici demografici di inviare una nota ai futuri diciottenni appunto di origine straniera con la quale loro possono appunto chiedere e ottenere appunto la cittadinanza italiana. Quindi non mi sembra nulla di scandaloso, anzi vengono osservate delle norme. Simon, ti voglio chiedere, tu avrai dei tuoi amici coetanei magari che come te hanno i genitori che sono nati in un altro paese, trasferitisi qua, bambini nati magari in Italia, che però al momento non hanno la cittadinanza, ti è capitato? Sì. E cosa ne pensi? Questi bambini vorrebbero la cittadinanza oppure al momento, diciamo, magari a 12-13 anni non ci pensi nemmeno a queste questioni, pensi ad altro, a fare altro. O ne parlate magari tra di voi di questi argomenti? No, secondo me non ci pensano. Non ci si pensa. Sì. È l'età della spensieratezza, d'altra parte, giusto sì. Così. Magari sono i genitori che si preoccupano per i documenti, per le cose che puoi fare, che non puoi fare, eccetera. Tu però diciamo che il fatto di essere cittadino italiano ti farà piacere, no? Il fatto di avere anche il passaporto, di avere nel documento scritto italiano, o non te ne frega sì. Proprio un tubo? No, mi interessa sì perché... come se mi integrasse tra gli altri. Sì. E vabbè, insomma, è 13 anni, è giusto anche che questa sia, diciamo, una preoccupazione fino a un certo punto. Ma come avverrà la collaborazione fra i due sindaci nella pratica? Ah, giusto. È vero. Devo rispondere io o il sindaco dei ragazzi? Tutti e due, direi. Sindaco... Allora, prima il sindaco dei ragazzi. Allora, giusto. Cominciamo col sindaco, il sindaco dici, piccolo. Dici, Simon. Come pensi di collaborare col sindaco grande? Farete qualche progetto insieme? Avete già qualche idea? Sì, io ho qualche idea da proporgli, però devo aspettare fino a settembre. Ok, di entrare in carica, giusto? Perché non è ancora entrato in carica. Ah, giusto. Vedi com'è rispettoso. Sindaco grande, lei che ci dice su questo? Beh, innanzitutto a settembre ci sarà l'investitura ufficiale nel Consiglio Comunale degli Adulti, quindi faremo alzare tutti gli adulti, faremo sedere i nuovi consiglieri comunali del Consiglio Comunale dei Ragazzi e verrà proclamato ufficialmente sindaco dei ragazzi. Beh, già questo mi sembra un gesto bellissimo. No, lo dico sul serio. Nello stesso tempo, anche se c'è stata un'anteprima l'altro giorno alla chiusura dell'anno scolastico, sì. Sarò molto felice di aiutarlo a indossare la fascia tricolore. Sì. E quindi questo sarà un ulteriore passaggio. Dopodiché ci saranno vari incontri tra l'amministrazione e noi, l'amministrazione loro, e metteremo a punto tutta una serie di progetti. Però, come dicevo prima, ci sono varie cose che sono già in comune, per cui si tratta solo di stabilire adesso quali sono le priorità per sarebbe loro, interessante insomma. Sarà interessante, ma questo è un altro dibattito, vedere la questione delle merendine come va a finire, perché su questo tema dell'alimentazione nelle scuole poi si urtano le sensibilità, i genitori, le commissioni mense, ne parlavamo anche ieri, no? È uno dei temi che riscalda di più i genitori. Simon è entrato così con questa proposta delle merendine, io non lo so come andrà a finire, sindaco grande. Qua bisognerà valutare bene, perché da un lato stiamo cercando di portare avanti tutta una serie di progetti per un'alimentazione sana, esatto, pane magari sana. E salame e non merendine sì. Industriali, però qua magari potete fare dei distributori di cibo sano. Sì, potresti trovare un compromesso. Tipo, anziché della merendina confezionata, esatto, la esatto. banana o la mela, eccetera, eccetera. O con dentro una vecchina che prepara dei panini dentro dalla macchinetta, questo sarebbe stupendo, di modo che dentro che siano prodotti sanissimi, che ci sia dentro una signora che fa delle polpette. Però ci terrei a ricordare che nel programma di Simon ci sono anche tante altre cose, le gite didattiche per tutti, le piste ciclabili, mettere a posto i marciapiedi, gli armadietti con lucchetto, e sarebbe bello, Simon, che in realtà che vi apriste a occuparvi anche di problemi che non sono solamente della scuola, perché io penso con questo che i ragazzi e i bambini abbiano delle idee molto più precise, sappiano molto meglio quale sia il bene comune. Quindi ti invito a occuparti anche di tutto, anche del bilancio a un certo punto, magari non quest'anno ma l'anno prossimo. Grazie a tutti e due, sindaco grande e sindaco piccolo. Grazie buona mille. Domenica. Buona domenica. Grazie a voi, buona domenica. Buona domenica. Ci risentiamo a settembre. Ciao. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buona domenica. Veloci veloci con un paio di ascoltatori all'800 24 0024. Marinella ci chiama da Milano, buongiorno. Buongiorno. Su cosa voleva intervenire, Marinella? Volevo proporre il personaggio della settimana. Perfetto, chi è? Secondo me è Hillary Clinton. Hillary Clinton. È un personaggio che... La notizia? La notizia è che lei ha presentato, cioè ha lanciato ieri a New York la sua campagna presidenziale. Sì. C'è la foto con col marito, foto, Bill, che si abbracciano, figlia, eccetera. Sì, sì, sì. Eccetera, non molla mai, sicuramente, no. Perché insomma, è un usato quindi, sicuro che ritorna e si ripropone. Sì, anche perché lei stessa ha detto, pare questa frase, si può dire di me qualsiasi cosa, ma non si può dire che io molli mai. Allora, ad honorem potrebbe tranquillamente essere lei il personaggio della settimana, ma non lo è. No. Io questa frase non l'avevo sentita, a dire la verità, per cui gliela do ad onore, però ecco perché ho chiamato immediatamente, perché ho così ho i nostri indizi e tranello sono volevamo un po' sviare. Ecco. Grazie Marinella, comunque grazie mille. Anche buona per domenica. Averci ricordato in effetti questa notizia. Antonio da Cagliari, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Volevo partecipare per il personaggio. Sì. Che secondo me è Paola Moschetti, la compagna del Maro La Torre. Mm-hmm. Perché adesso, questa settimana? Ho sentito che ha partecipato a una manifestazione, la frase diciamo che è uscita da un punto di vista mediatico è questa. E mi ha colpito perché in altre occasioni una frase del genere era stata strumentalizzata per motivi politici, quindi mi è rimasto in testa. Ci stava tutta anche questa, Antonio, grazie per averci chiamato da Cagliari, però... Non è il personaggio che avevamo pensato e scelto. È un altro personaggio che non molla mai. 800 24 0024, tra poco. È successo ancora, gli irrealistici limiti alla movida. È accaduto a Bologna, irrealistici perché insomma, chiedere alla gente di non consumare il gelato dopo le 11 di sera d'estate, non so come vogliamo definirlo, irrealistico o una follia. Soprattutto temo che molte volte si pensi che in questo modo allora le città sia meglio perché così non ci sono i giovani, invece spesso in questo modo le città diventano meno sicure, perché se alle 11 tutto chiude e poi le città restano in balia di quelli che molto più di malintenzionati piuttosto che di persone che vogliono mangiare un gelato sindaci, o anche una birra. Amministratori, non fate gli sceriffi, gli sceriffetti su queste cose qua, perché possiamo dirlo, vi fate ridere anche dietro. È accaduto a Bologna. E noi abbiamo con noi Stefano Roccamo, gelataio. Buongiorno e buona domenica. Che però alla fine credo che tra un'ordinanza e l'altra sia riuscito, diciamo, a spuntarla. Stefano, raccontaci un po' com'è andata. Ma dunque, adesso la notizia è che mercoledì è stato firmato un patto, sì, che non riguarda solo me, riguarda alcune attività, fondamentalmente gelaterie, che rientrano nella zona in cui è stata emanata l'ordinanza, per cui si dà licenza di poter stare aperti oltre il termine previsto dall'ordinanza, che è quello delle 23, per i laboratori artigianali. Ecco, quindi diciamo così, c'era un'ordinanza prima che aveva stabilito un limite alle 23, cosa doveva succedere in base a quell'ordinanza? Ma dunque, chiudere o smettere di vendere? No, chiudere proprio gli esercizi. Sì, assolutamente, tirare giù la serranda. L'ordinanza prevede che sì, i negozi alimentari chiudano alle 22, i laboratori artigianali alle 23 e i bar all'una di notte. Chiaramente il paradosso in tutto questo è che il tuo è un laboratorio artigianale, quindi un laboratorio artigianale, una gelateria e non vendi alcol, quindi tu dici almeno vorrei essere parificato ai bar, cioè poter chiudere fino all'una, giusto? Ma sì, perché non si capisce bene per quale motivo chi vende alcolici può stare aperto fino all'una e vendendo gelati bisogna anticipare la chiusura di 2 ore. No, quella è proprio una follia. Una follia, personalmente penso che potreste rimanere aperti tutti fino alle 3, ma notte. Comunque... Sì, questo è un passo successivo, poi c'è giustamente la quiete pubblica, certo, ci mancherebbe altro. Vogliamo non rispettare dicendo... tutti quelli che abitano, perché qua siamo nel centro, no, di Bologna. In che via siamo? Esattamente. Dunque, nello specifico io sono in via San Vitale. Che è una via centralissima, una radiale, sì, zona universitaria, zona centrale, cantata anche da Guccini, no? Quartiere San Vitale, per chi se lo ricorda, è proprio il cuore della città. Quindi rispettiamo anche chi ci abita, tutto quello che volete. Però far chiudere le gelaterie alle 11, capite che... E poi, infatti, ricordiamo che le persone possono urlare anche senza un gelato in mano. Senza un gelato non è che il gelato fa urlare di più. Con la bocca piena si urla di meno. Stefano, hai fatto ricorso, vero? Certo. Ma dunque... Allora, cioè hai contribuito a sollevare questa questione? Sì, ma allora la questione nasce già 2 anni fa, ecco, perché io ero precedentemente su un'altra strada che è via Petroni, che è al centro delle cronache, perché collega Piazza Verdi, che è il cuore della zona universitaria, con Piazza Aldroandi, ed è una strada affollata di notte, anche di giorno, insomma, fondamentalmente da chi gravita intorno all'università. Certo. E non solo, ed è piena di attività che fondamentalmente propongono ristorazione da strada, ecco. E l'ordinanza come laboratori artigianali chiaramente andava a voler come dire, colpire anche quelle attività che fanno questo tipo di ristorazione, per cui panini, pizzette, kebab e quant'altro. Tutta roba pericolosissima. Quali, questo notte. Quando avveniva? Quali, sì, esatto. Quando avveniva questa cosa qua l'anno scorso? Questo avveniva, no, avveniva dunque, adesso non vorrei confondermi con gli anni, ma comunque settembre, se dico giusto, ottobre 2012. Ok, qualche anno fa. All'inizio di ottobre 2012. Già un'ordinanza cui... limitava negli orari... La possibilità che tu la somministrazione potessi fare, esatto, il tuo lavoro. Dopodiché ti sei trasferito in un'altra strada. Sì, mi sono spostato di 20 metri perché l'ordinanza, sì, appunto copriva esclusivamente quella strada. Io mi sono trasferito sulla strada che andava a incrociare via Petroni, ma esattamente ed è arrivata metri, un'altra ordinanza. A quel punto hai detto vabbè, ma allora ce l'avete con me. Ma è questo, ma che mi ha sollevato un po' di forse ce l'hanno con la tua gelateria di mira, però insomma la cosa è paradossale perché insomma traslocare comporta dei costi importanti. E dunque noi c'eravamo su quell'altra strada precedentemente, sì, appena insediati, insomma ci stavamo da un anno, abbiamo fatto 2 stagioni, per cui trovarsi poi di nuovo a fare un trasloco diventa oneroso, ecco. E dunque se poi riparti, noi qua abbiamo aperto un anno fa e dopo un anno ti arriva di nuovo un'altra ordinanza, diventa come dire un po' frustrante, ecco. No, anche perché credo che per un gelataio d'estate l'ora tra le 11 e mezzanotte sia un'ora nella quale vendi il 20% di tutti i gelati, insomma. Sì, dunque in quella fascia oraria là facciamo il 30-35% dell'incasso. La gente esce magari dal ristorante la sera o dalla pizzeria, o esce di casa tardi dopo aver cenato, si fa un giro e si mangia un gelato. Grandi classici dell'estate. Insomma, non è che stiamo pretendendo molto, veramente si fatica a capire. Allora voi direte, ma dovete sentire anche il sindaco, dovete sentire i comitati dei cittadini per avere l'altra parte, tutto quello che volete. Abbiamo fatto in altri casi, abbiamo ospitato anche i comitati, diciamo, antimovida, tra virgolette, quelli che chiedono rispetto alla quiete pubblica, ci sta tutto, un equilibrio va trovato, però sinceramente diciamo, impedire a un gelataio di vendere il gelato dopo le 11 di sera è incomprensibile. Ma senti, ma alla fine hai deciso di rimanere? Perché ho letto una tua dichiarazione dove dicevi vado in Germania. Ma dunque, allora è successo questo, che dopo quell'articolo in cui ero un po' esasperato, appunto, perché avevo appreso dell'ordinanza peraltro a mezzo stampa, perché poi, come l'altra volta, non c'era stata comunicata da nessun organo del comune, ecco. Anche perché hai una voce tristissima, perdonami se te lo dico, e quindi no, hai la voce che sei veramente, che mi spiace, che mi sembra sì, che... Beh, insomma, diciamo che uno vorrebbe preoccuparsi di fare per bene il proprio lavoro, no? Poi se deve stare a tribolare con altre questioni diventa faticoso, insomma, e dunque questo amareggia un po', ecco, perché cioè, noi ci mettiamo molto impegno, molta passione nel lavoro che facciamo. Facciamo proposta di qualità, motivo per cui poi non si capisce neanche perché, soprattutto rispetto alla vecchia storia, insomma, noi ci insediamo in via Petroni per riqualificare, fummo finanziati da un bando pubblico del comune per andare ad insediarci esattamente in quel territorio e riqualificarlo, visto che facciamo gelato biologico, insomma, è un prodotto di qualità. Ascolta, siamo in chiusura, dici se resti o se vai o no, assolutamente, che è la nostra agitazione. Abbiamo firmato un accordo mercoledì, io lunedì, ossia il giorno dopo, il giorno stesso dell'entrata in vigore dell'ordinanza, sono stato contattato dall'assessore al commercio, che mi chiedeva se ero disponibile per un accordo, ovviamente è stato spostato l'orario, per cui per il momento Stefano resta con la sua gelateria in via San Vitale, meno male, con lui tutti gli altri gelatai che potranno continuare a vendere gelati anche alle 11:01, viva Dio. 800 24 00 24, cari ascoltatori, vi aspettiamo anche per commentare nelle vostre città cosa sta accadendo su questo e anche per il gioco personaggio della settimana. Non molla mai, a dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Suona in lontananza un allarme che poi si sa che non serve a niente, tanto nessuno controllerà. Serve ad azzerare ogni mia probabilità di prendere sonno in questa notte che mi stritola. Beh, questa è Si può fare, questa che abbiamo appena ascoltato è Sopravviverai di Max Pezzali, che è la canzone suggerita da Arianna da Sondrio. Questo è il suo Si può fare in musica, perché invita a non autocommiserarsi dopo le delusioni della vita e dell'amore, perché alla fine possiamo sempre cavarcela in qualche modo. E quindi ci è piaciuta molto la motivazione. Vi ricordiamo che noi siamo sempre in cerca dei vostri Si può fare in musica, sia che voi siate di musicisti o di compositori, che abbiate composto delle canzoni ad hoc, sia invece che semplicemente riconosciate in alcune canzoni o in una canzone specifica il concetto di Si può fare della nostra trasmissione. Ce lo potete segnalateci i vostri Si può fare in musica sui nostri account social, per esempio sul nostro Facebook che è Si può fare trattino Radio 24, oppure sul nostro account di Twitter che è chiocciola Si può fare 24, oppure sui nostri account personali. Il mio è chiocciola Carlo Gabardini e il mio è chiocciola Ale Maurizi. Cari ascoltatori, 800 24 00 24 vi aspettiamo per commentare, per giocare con noi al gioco della settimana, il personaggio della settimana, ma anche per commentare le notizie, insomma, di cui ci siamo occupati. Siamo partiti questa mattina dalla strana coppia, il sindaco di Prata, provincia di Pordenone, Favot, e il sindaco dei ragazzi Simon Ghizzelli, albanese, una strana coppia, abbiamo detto, un modo per parlare. Con un tocco però sì di ottimismo, cari ascoltatori che ci scrivete ai messaggi 3492386666, che la cronaca è drammatica. Sì, la cronaca è drammatica, c'è sui giornali, c'è nei telegiornali. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo parlare solo di quello. Parliamo anche di come sta cambiando l'Italia, per esempio nelle classi, nelle scuole italiane, dove ci sono molti bambini stranieri che si stanno inserendo bene o male, speriamo bene. Anche perché la il caso di Simona era un caso positivo, molto positivo. Ma la realtà, per fortuna, è fatta di tante altre fatta cose, di tante sfaccettature. Se no, stiamo solo a lamentare. Volevo anche solamente ricordare una cosa, visto che prima l'hai ricordato tu, oggi è il 75esimo compleanno di Francesco Guccini, al quale facciamo gli auguri. Ah, io l'avevo ricordato. L'hai ma... nominato prima, parlando del gelataio a Bologna, e quindi mi non sembrava corretto. Non avevo ricollegato col fatto che fosse il suo compleanno. Augurissimi a Francesco Guccini, naturalmente. Poi abbiamo conosciuto anche il gelataio di Bologna che, insomma, è riuscito a spuntarla contro il comune, contro gli irrealistici limiti alla cosiddetta movida, cioè divieto di vendere il gelato dopo le 23. Ed era anche divertente perché lui si spostava sempre continuava a spostare la sua gelateria fuori dalla zona dei limiti delle 23, e però a un certo punto ha detto: io non è che posso fare un trasloco ogni 6 mesi, anche perché il gelato si scioglie. Abbiamo un po' di ascoltatori, cominciamo con Lino che ci chiama da Matera. Buongiorno Lino. Buongiorno, ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao. Allora, cosa volevi intervenire Lino? E niente, riguardo il gioco per il personaggio che non mola mai, secondo me, è Blatter. Che però ha mollato. A un certo punto ha mollato, sì. Ma no, di stamattina hanno detto che ci sono pressioni e può darsi che non molla, almeno per quello che mi risulta. Poi. Che ritira le dimissioni addirittura. Cioè, ha dato le dimissioni, tutti si accorgono che invece preferiscono avere lui. No, vi prego, vi prego. Gli asiatici. Ah, che però sono quelli che hanno i soldi, gli asiatici. Ci stai dando una notizia in diretta, non sappiamo se sia vera o meno. Comunque non era il personaggio che abbiamo scelto per questa settimana. Grazie ad aver chiamato. Grazie, comunque Fabrizio da Parma. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Ciao. Su cosa volevi intervenire? Sul personaggio della settimana. Perfetto, tutto sul personaggio. Orecchi. Non molla mai, chi è? Il sindaco Marino. Il sindaco Marino. Beh, la notizia, diciamo che ce ne sono parecchie. A quale ti stai riferendo di notizia? Probabilmente quando lui ha rilasciato l'intervista che chiedevano le sue dimissioni e il conseguente commissariamento di Roma in occasione del giubileo. Ah, lui ha detto no. Perché in realtà, insomma, è stato preso un commissario per il giubileo, però poi Marino in realtà ha rettificato, ha detto: io sono ben contento di collaborare con questo commissario, non è vero il fatto che io ho detto che non voglio il commissario. Ieri c'è stata questa telefonata di Gabrielli in cui si è preso 3 giorni per decidere di parlare col Ministero degli Interni se effettivamente commissariare Roma per il giubileo o meno. Esatto, siamo contenti che tu abbia dato questa notizia, ma il personaggio non era Marino, che comunque salutiamo, che ieri era in piazza per il Pride, si è fatto il Pride. Marino che, me lo ricordo perché io l'anno scorso ho fatto tutto il Pride al suo fianco in qualità di testimone del Gay Pride, e quindi gli faccio i complimenti anche per quest'anno, anche perché ha mantenuto le promesse che mi fece l'anno scorso durante il Pride sulla trascrizione dei matrimoni. Però vive un momento quantomeno critico, perché lui continua a dire di essere un baluardo contro la corruzione a Roma, gli si può credere, però parti della sua giunta, pezzi della sua giunta sono finiti in mezzo all'inchiesta. A questo punto si sta complicando, ecco, la situazione. Carmen da Cuneo, complicando quantomeno. Carmen da Cuneo, buongiorno. Sì, sono io, ascolto. Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Su cosa volevi intervenire? Personaggio anche tu? Certo, sì. Chi è? Che non molla mai. Io ho pensato, perché avevo letto un articolo, a Emma Bonino, che come sapete sta sconfiggendo la sua battaglia contro il cancro, e ho letto un'intervista, mi sembra su Repubblica, in cui dichiarava che se ce la faceva tornasse, sarebbe tornata in politica, avrebbe ripreso le sue attività. Beh sì, qualche intervista l'ha fatta già, sì. Non molla mai lei già sicuramente. Da un po', no, e ne abbiamo anche parlato, è un bellissimo non molla mai, e siamo molto contenti di aver ricordato la notizia, ma non è il personaggio che avevamo scelto, però grazie di aver chiamato. Tanto già settimana scorsa qualcuno aveva chiamato per... Ma tanto avevo già vinto una volta. E come? Non ho avevi già vinto una volta? Sì, avevo già vinto una volta. Con vedi. Che personaggio? Chi era quella volta lì? Chi è che ave... Ah no, quella volta era per Non si può fare di 2 anni fa, in cui avevo parlato di una mia iniziativa di dopo scuola per i bambini. Ho vinto, mi sembra, 2 biglietti, cioè, mi sembra, lo so, ho vinto 2 biglietti per la mostra di Mucca. Sì, molto bene, noi siamo felicissimi. Bei ricordi, brava Carmen. Ci spiace, ma questa volta non hai vinto, però ti ringraziamo moltissimo e continuo a chiamare. Grazie. Gianni da Milano, poi andiamo sul traffico, vai Gianni. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo dire, il personaggio che non molla mai, secondo me, è Giancarlo Galan. Sì? Perché non molla mai? Beh, prima di tutto non molla la presidenza della Commissione Cultura. Cultura, sì. E secondo, mi sembra che in settimana abbia detto che farà ricorso contro il suo patteggiamento. Cioè, lui ha patteggiato 2 anni e 10 mesi. Sì, è vero, e ha detto che vuol fare ricorso contro il patteggiamento? Esatto. Sì. Dicendo che gli è stato praticamente storto per che voleva uscire dal carcere, quindi sì. Penso che uno che si era anche fatto male alla gamba a un certo punto mentre era in infermeria, sì. E per uscire, quindi mi sembra uno che non molla mai assolutamente. Non è il personaggio che abbiamo scelto, ma in tutte le parole che ci siamo scambiati ci sono alcuni dati che potrebbero aiutare a indovinare il nostro personaggio. Oh là là, è vero, assolutamente, è vero. C'è un elemento che però... accomuna col personaggio, esatto. Quello vero, che non molla mai. A questo punto però lo diamo, l'altro indizio. E l'altro indizio che diamo è che il nostro personaggio è un musicista. Ragazzi, qua questo indizio è secco, è proprio... Tac. Apre a delle ipotesi, però abbiamo ristretto. Ne chiude anche delle altre. Abbiamo ristretto di molto il campo. Vogliamo essere generosi. Vogliamo essere generosi. 800 24 00 24. Torniamo tra poco e parliamo di scuola, va. Momento così. Momento down. Doveva partire qualche cosa. Ma non ma è partito. Noi, ma noi lo riempiamo cantando noi delle canzoni. Eccola, è partita. Alla mia maestra piace tanto Giovanotti. Viene a scuola tutti i giorni per interrogarci. Sì, però non fa mica come gli altri, che si sa, danno voti bassi o alti. Bassi o alti. Bassi o alti. Le pretende invece che rispondiamo a tempo, yeah. E si dica la lezione con bravura e precisione. Con il fare stravagante che distingue quel cantante, con quel passo zoccolato e quel ritmo sincopato che fa tum cha, tum tum cha, tum cha, tum tum cha. Re, scuola re, è proprio tanto bello imparare con il re. Re, maestra re, sei forte, sei un mito, sei meglio che c'è. Re, scuola re, mi piace andare a scuola, se la scuola è così re. 6x3 18, 6x4 24, 6x5. Scuola rap, questo è lo zecchino d'oro, eh. Questo è uno zecchino d'oro moderno. Moderno. Beh, no, sì. Lo zecchino d'oro è così. Beh, lo zecchino d'oro si è evoluto, Si è adeguato moltissimo. È un po' che io non ascolto. Non per citare sempre mia figlia di quasi 4 anni, Viola, ma insomma ogni tanto entrano in casa queste cose. Dovrà vincere la tua figlia lo zecchino d'oro, dovremmo mandarla. Dovremmo candidarla a cantare, bravina. Parliamo di scuola e parliamo di intanto una petizione online, l'abbiamo già annunciata settimana scorsa, basta compiti per le vacanze, un tema che quando si arriva a giugno ritorna, ma ritorna sempre di più, cresce, un'onda che monta, però non c'è niente da fare, continuano a girare libri con da riempire, con compiti da fare durante le vacanze estive, e genitori che vanno in tilt perché i ragazzini da soli, senza insegnanti, poi non sanno come fare, chiedono ai genitori, genitori che non si ricordano più la grammatica, la matematica, chiedono agli zii, ai nonni, insegnanti, agli amici, e diventa una vera e propria follia. Ne parliamo con Maurizio Parodi, che è preside ma anche autore di un libro che si chiama per l'appunto Basta Compiti. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, in questo caso, diciamo, a rilanciare la questione è stato un insegnante, Cesare Catà, che ha fatto nient'altro che mettere un post sul suo Facebook con la fotocopia, diciamo, delle proposte per i compiti speciali che ha fatto agli alunni della sua classe di liceo. Tante cose, tra cui appunto fare le capriole, tenere un diario, leggere dei libri, niente compiti, perché questo professore, come altri e come anche lei, preside, è convinto che tutti sti compiti alla fine non so, non servono, sono controproducenti. Adesso ci spiegherà lei. Intanto però le chiediamo, dal punto di vista, diciamo, dei regolamenti scolastici, delle direttive, questi compiti sono obbligatori, sono previsti, come funziona? No, assolutamente non c'è alcun obbligo in tal senso. Le dirò di più, che le rare volte in cui il Ministero si è occupato di questo tema, e ricordo in particolare due circolari ministeriali, lo ha fatto per raccomandare di non assegnare compiti durante i periodi di sospensione delle lezioni, durante le vacanze. Quindi questo è stato da sempre, diciamo, storicamente l'orientamento del Ministero. Quindi il Ministero invita, come dire, gli insegnanti, sì, a non farli è perché evidentemente si assegnano questi compiti. Ma perché si assegnano allora questi compiti? Ma guardi, si tratta di inveterate abitudini, ci sono alcune ritualità burocratiche che scandiscono la liturgia didattica, che sembrano inamovibili, quasi fossero necessità fisiologiche del sistema. Un sistema che funziona secondo il principio per cui a scuola si insegna e si impara, e si impara a imparare a casa, che è un assurdo, soprattutto in epoca di esuberanza dell'informazione, di bombardamento continuo, incessante. Informazione. A scuola si dovrebbe imparare a imparare, non a casa, anche perché in questo modo si delega allo studente o alla famiglia il compito principale al quale dovrebbe dedicarsi il docente, che è il professionista dell'istruzione. Quindi paradossalmente il docente non c'è nel momento in cui ci sarebbe maggior bisogno della sua presenza, quando questi bambini e questi ragazzi tentano, e non tutti riescono, di acquisire autonomamente un metodo di studio. Ma però mi scusi, forse sbaglio, ma però bisogna anche un po' imparare a studiare da soli, o sbaglio? No, bisogna imparare a studiare. Per imparare a studiare, come per gli atleti, esistono dei luoghi deputati, ecco, la palestra dell'intelligenza in questo caso è la scuola. Le faccio un esempio molto banale: l'insegnante di lettere dello scorso anno, di scuola media di mio figlio, non ha mai dato compiti a casa, e ai genitori un po' perplessi, perché sappiamo che i genitori sono rassicurati dal modello di scuola che conoscono, quello nel quale si riconoscono, ha spiegato: ma se io non vedo quali sono i problemi che incontrano i ragazzi quando devono imparare a imparare, quindi ad acquisire un metodo di studio, come faccio ad aiutarli? E i ragazzi durante le ore di lezione studiavano con lui a scuola. Certo, però per esempio potrebbe essere un buon momento dove far leggere dei libri, o sbaglio? Che forse non è proprio studiare, cioè, secondo me i compiti non è riempire un casellario con le risposte esatte, però è prendersi un tempo per leggere dei libri tipo I fratelli Karamazov, che sono lunghissimi ed è molto difficile. E ci vuole tempo. E ci vuole molto tempo. Sì, certo. L'importante è che la lettura non diventi obbligata e formativa necessariamente. Perché sennò poi non si legge mai più. Esatto, non diventi uno strumento di tortura. Io ricordo Umberto Eco che quando chiesero di definire un classico in letteratura, disse: niente di più facile, è un libro che tutti odiano perché sono stati costretti a studiarlo a scuola. Giusto. Ora, se il libro diventa, anziché strumento di elevazione, un supplizio, un impegno estorto, però, è difficile. Presi, più che a me personalmente, per la mia esperienza, lo ripeto, quello da figlio di insegnanti, dopo aver fatto la scuola, dopo aver avuto tre nipoti che sono tutti nella scuola, adesso una figlia che sta entrando nella scuola, la cosa che mi ha colpito di più è appunto la condizione nella quale si trovano spesso i genitori. Non tutti i genitori sono preparati ad accompagnare e a seguire i ragazzi nel fare i compiti, e questa è una situazione che mette in grande difficoltà. Quindi dare libri da leggere, dare da fare dei diari, fare delle cose diciamo più creative nei quali non c'è bisogno di rispettare le regole della grammatica, l'assistenza, mi sembra una cosa, come dire, di crescita che però non mette in difficoltà i genitori. Invece questa questione dei compiti con i libri da riempire credo che metta in difficoltà molte famiglie, forse non diciamo chi questi libri li vende, ma insomma, al di là di questo, questo è un punto di vista. Però in effetti diciamo la tendenza ancora oggi è quella di assegnarli questi compiti. Torniamo al punto, come mai secondo lei? Beh, però aspetti, lei ha detto una cosa estremamente interessante sulla quale mi vorrei soffermare. Non tutti gli studenti hanno famiglie culturalmente o economicamente affettivamente attrezzate. Tra l'altro c'è il business delle lezioni private, un business milionario in nero che certifica il fallimento della scuola, purtroppo. Ecco, non tutti gli studenti hanno risorse di questo genere, quindi paradossalmente risultano svantaggiati i ragazzi che hanno maggiori difficoltà. I compiti a casa sono una delle concause dell'abbandono scolastico, e c'è un dato insomma, di recente acquisizione: l'Italia eccelle per l'incapacità di compensare le diseguaglianze sociali. Vuol dire che la scuola premia soprattutto chi sia già privilegiato, e il giorno dopo i compiti chi è svantaggiato lo è un po' di più, e questa è una discriminazione assolutamente scandalosa, insopportabile. Non è ipotizzabile una scuola che discrimini proprio perché assegna compiti in modo indiscriminato. Però scusi, allora a questo punto io non capisco, se il ministero dice non assegnate troppi compiti, c'è una direttiva, c'è anche una richiesta forse da una parte delle famiglie, ma questo conta fino a un certo punto, perché poi ovviamente la comunità scolastica decide in autonomia. Però gli insegnanti che continuano a assegnare i compiti vanno, come dire, fuori da una regola, come possiamo definirli? Fare in autonomia? Sì, assolutamente. Guardi, le circolari a cui mi riferivo sono del 60, degli anni 70, quindi sono superate dal punto di vista diciamo strettamente giuridico, e comunque non sono cogenti, non sono prescrittive, perché la libertà di insegnamento è costituzionalmente garantita e protetta, per cui sono gli insegnanti che decidono in assoluta autonomia, eventualmente con un coinvolgimento degli organi collegiali. So che ci sono regolamenti dei consigli di istituto che cercano di razionalizzare in qualche modo questa pratica. E gli studenti italiani sono i più afflitti, fanno il doppio, il triplo dei compiti dei loro coetanei stranieri, e stranamente abbiamo un tasso di analfabetismo funzionale tra i diplomati italiani che è davvero inquietante. Quindi nonostante tutti questi compiti questo però è strano, perché di solito invece si dice che gli studenti italiani sono molto preparati. Cioè no. le devo confessare non so bene nemmeno io, guarda, io non ho una posizione precisa su questa questione, devo ammettere. Devo però diciamo portare la mia testimonianza, dove dico: io di compiti sicuramente ne ho fatti un sacco durante tutte le vacanze e non mi sono sentito vessato per questa questione. Poi magari, cioè, nel senso che uno magari non ha i genitori pronti. Io addirittura ho fatto la scuola tedesca e i miei genitori non sapevano il tedesco, a parte un po' mio padre, ma e ciò non toglie che uno si organizza, si mette insieme ad altri compagni, trova il modo per farli questi compiti. Quindi ammetto, e mi spiace quasi, che io non ho una posizione così contraria ai compiti. Vorrei essere convinto e uscire da qua dicendo: è vero, bisogna dire basta compiti. Allora. Ma ho un po' paura che invece sia un che tra non averne neanche un po' e avere dei compiti da fare, forse sia meglio avere dei compiti da fare. Però mi corregga. Le posso dare un paio di suggerimenti. Intanto leggere il testo della petizione, che non è basta compiti per le vacanze, ma è basta compiti. Ha raccolto più di 5.000 firme, e il gruppo Facebook Basta Compiti ha più di 4.500 iscritti. Beh, con un titolo quindi, così, però è facile raccogliere firme, perché è come scrivere più soldi per tutti. No, come più merendine per tutti, come più merendine prima di Simon. Ah no, invece guardi, guardi che direi che la maggior parte dei genitori, come accennavo poco fa, non solo chiede, ma pretende i compiti a casa, perché li considerano un indicatore di qualità, di serietà e di rigore della scuola, ma proprio perché formato o deformato dalla scuola che ha frequentato da studente. Quindi c'è un'aspettativa in questo senso molto alta. Io come dirigente scolastico ho presieduto un'assemblea di classe, metà dei genitori si lamentavano perché i compiti erano troppi e l'altra metà perché erano pochi. È un classico, sì. Stessa classe, stessi insegnanti. Quindi no, la posizione più largamente maggioritaria, è quella favorevole ai compiti. Ah, okay. A me stupisce che ad esempio ci siano più di 80 insegnanti che si sono iscritti alla pagina docenti e dirigenti a compiti zero. Sono veramente tanti, considerato che il malcostume è così diffuso. Vabbè, insomma, noi dobbiamo mettere un punto a questo punto, non solo perché stanno suonando le campane, caro Preside, parodi attorno a lei, è un segno del destino, ma anche perché c'è la pubblicità. Poi abbiamo un blocco registrato, lo anticipo subito, è tornato Tricarico a farci sentire il suo nuovo singolo in settimana. In anteprima nazionale, ve lo faremo sentire tra poco, 800 24 00 24. Cari ascoltatori, questo tema dei compiti a casa sicuramente... dobbiamo riparlare, io voglio riparlare. Ci troverà su posizioni diverse, perché... però la notizia è che c'è una petizione, che c'è una qualcuno che chiede di farla finita, diciamo, con i compiti a casa. Poi abbiamo approfondito un po', il preside ci ha detto la sua, Carlo non era tutto convinto. No, ma adesso ho capito, perché in realtà il preside sta dicendo ci vuole un altro sistema di scuola, solo che io penso che prima di togliere i compiti bisogna cambiare il sistema della scuola, perché è giusto dire in realtà si impara a scuola e non a casa, ma finché non hai quello forse allora intanto facciamo anche dei compiti. Però mi convincerà il preside. Torniamo tra pochissimo con Francesco Tricarico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Pietra che non beve non mangia, poi viene il cielo che non ha la forma, poi viene l'albero che non teme l'inverno, poi viene il sole che mai si spegne, poi una luce certola che sta sul muro in campagna, poi una coccinella che vola di fiore in fiore, e vorrei essere il sole che sta scaldando una ragazza, che prende il sole sulla spiaggia ed è lucente e splendente. È che la musica mi ha salvato, quando ero piccolo la musica mi ha salvato, e me ne stavo seduto sul mio prato ad ascoltare il mangiadischi cantare. La verità è che la musica mi ha salvato, quando ero piccolo la è tornato a trovarci Francesco Tricarico. Buongiorno Francesco. Buongiorno, grazie, buongiorno. Grazie dell'ospitalità, ormai sto sempre qui ormai. È venuto a trovarci, ti sei trovato bene evidentemente. Molto, molto. E poi è nata così, hai detto voglio tornare, voglio farvi sentire il nuovo singolo. Sì, in anteprima il nuovo singolo a cui tengo molto, quindi adesso lo sentiremo insieme. Ma non capisco se sei emozionato o ci stai prendendo in giro, perché io sono emozionatissimo, è la prima volta che lancio un singolo in anteprima, quindi sì, sono molto emozionato. Tra l'altro Radio 24, che non è una radio musicale, si può fare, che appunto non è un programma musicale che usa la musica come linguaggio tra gli altri, però è bello. Forse anche per questo. Ma infatti in realtà non è una canzone, lui canta gli indici Mibtel, sarà totalmente per 4 ore. Francesco, come due parole su questo singolo che adesso tra poco sentiremo, che anticipa un nuovo album dopo Invulnerabile. Sì, dopo Invulnerabile a settembre uscirà un album di cui non c'è ancora il titolo. E questa canzone viene presentata qui perché qui è un luogo, non è solo una canzone, questa è un'osservazione su... mi fai ridere Carlo, non mi guardare, va bene, non ti guardo, è un'osservazione, è una canzone che osserva il momento attuale dell'Italia, un momento estremamente drammatico ma anche ridicolo, perché in fondo siamo drammatici ma siamo sempre anche molto divertenti anche nell'essere drammatici. Questo è un pregio o è un difetto? No, questo è un difetto. Che non riusciamo a capire l'effettiva drammaticità della situazione. Perché l'altra volta ci avevi detto che per te questa crisi, che lunga crisi economica che che abbiamo in qualche modo alle spalle, ma che stiamo ancora vivendo, secondo qualcuno non è finita, è stata come una guerra, come una guerra, che però il peggio è passato, vi ho detto. Sei un po' ottimista o no? No, sono ottimista, sono molto ottimista, devo esserlo, cioè non riesco a vedere come potrebbe proseguire su quest'onda, cioè sarebbe un disastro, per cui voglio pensare che ci sia a breve un cambiamento di cui non riesco ancora a immaginare da cosa possa nascere questo cambiamento, ma sento che è nell'aria, come tutti i cambiamenti sarà una... Sarà, è come quando cammini e ti innamori, no? Improvvisamente, dici, e tutto non... cambia improvvisamente. Io penso che succederà qualcosa di estremamente bello, però non so ancora cosa. E allora, e nemmeno quando. Non possiamo darci un appuntamento. Sì. Arriverà il cambiamento. Sentiamolo allora all'inizio di questo. Ma la sentiamo dal vivo un pezzo. Sì, sì, abbiamo la fortuna di avere in studio Tricarico. Io voglio un pezzettino, lo sentiamo dal vivo. Yeah. Yeah. I cani che passeggiano si scaricano, le donne che si sposano si caricano, oh, ma gli uomini che si sposano si scaricano, oh. Marcia la mela, la mela, la marcia, marcia la mela. Andare, butta la pasta che siamo in tre, se arriva marzo divento pazzo, fai il caffè. Fallo per me, fallo per te, fallo per tre. Marcia la mela. Basta così. No, tra poco la sentiamo. Come basta? Noi saremo andati avanti fino in fondo. Marcia e la mela. Cos'è la mela, Francesco? Cos'è? La mela è. Chiedere a un cantautore di spiegare le sue canzoni è sempre una cosa assurda. È come chiedere ai poeti, giustamente. Però un accenno, un aiuto. No, la mela è una metafora, ognuno la può interpretare come vuole. Può essere la società, può essere. Può avere aspetti sessuali, sensuali, erotici. Però in questo caso è marcia la mela perché. C'è qualcosa che non abbiamo mangiato in tempo, non abbiamo digerito e forse dovevamo mangiarla. E per cui è rimasta lì e l'abbiamo trascurata e qualcosa è marcito. Quando è che marcisce qualcosa? Quando... No, a volte è marcio già dentro però. Sai quando apri le mele che sembrano belle sono marcia? Marcia è la mela nel senso che siamo arrivati a un punto di, come si diceva prima, di non ritorno. Ma in questa tua, diciamo, così, rappresentazione di questo nostro presente, quando parli del marcio, ti riferisci a uno specchio della nostra società come potrebbe essere la nostra classe politica, per esempio? Oppure no, guardi a tutti, guardi a te, guardi intorno a te, guardi nella tua famiglia, tra i tuoi amici, tra i tuoi conoscenti, tra tutti? Ma io nella mia famiglia, tra i miei conoscenti, vedo persone stupefatte tante volte di quello che succede, insomma, ci si parla, io andando in giro suonando vedo grande voglia di fare, grande voglia di lavorare, di grandi risorse in Italia, grandi ricchezze nelle persone e nelle cose. Quello che mi colpisce è comunque la corruzione che c'è a monte, che fa marcire tutto. La corruzione, se lasciata, distrugge il marcio, no? È qualcosa che impedisce al merito di essere premiato tra gli attori, in tutti i settori, negli appalti, nelle gare, impedisce che le cose siano fatte bene, no? Perché c'è corruzione, perché c'è il figlio di che arriva in un posto e tu dici ma perché lui? Perché? Cioè solo perché sei il figlio di dovresti stare a casa o fare un altro lavoro, no? Per correttezza verso... Perché non si possa neanche minimamente pensare che tu sia lì perché sei il figlio di... E invece no, in Italia sembra quasi un'ostentazione di tutto questo, e secondo me è un po' questo il marcio, che non, nulla più accade per merito, e invece ci sono delle risorse inimmaginabili, secondo me. Basterebbe far saltare un tappo e sarebbe una grande rivoluzione questa. Senti, tutti, cosa, cioè, tutti i figli di non dovrebbero fare di. Questa già sarebbe una discreta ricetta. Cioè, dovrebbe esistere una regola. Eliminare certe situazioni. Beh, è vero. Sì, per cui è vietato fare lo stesso lavoro del padre, tu dici? Sì, no, sì, non so se è una soluzione. Diciamo che se sei ottimista lo nascondi molto bene, comunque, Francesco, posso dire. No, oggi mi sono svegliato male. Oggi è un giorno veramente. Però voglio dire una cosa che ti farà sorridere, perché l'altra volta avevi detto. Oggi sono un po' anche così. Con una buona dose di autoironia. Sì. Da questo singolo mi aspetto molto, per una questione anche di cabala. Hai detto la cabala. Ogni 7 anni succede qualcosa. Sì, sì, sì, è vero, è vero. Ogni 7 anni, ma è una cosa fisiologica, è fisiologica anche questa. Ogni 7 anni le nostre cellule vengono, dopo 7 anni sono completamente cambiate, credo tranne quelle cerebrali. È come se dopo 7 anni il nostro corpo rispetto a 7 anni prima fosse completamente rifatto. Quindi la mela adesso raccia, Francesco, ma forse si può, la possiamo salvare? Francesco si sta, se l'avessimo surgelato, sta filosofeggiando, ma si sta riferendo agli anni in cui sono uscite le sue canzoni. Io sono Francesco, la vita tranquilla, sì, 7 anni dopo, la mela 7 anni dopo, sì. I grandi successi nel mezzo, tante canzoni. Ogni 7 anni però la musica mi salva da me stesso e dalla società. E allora sentiamola, la mela. I cani che passeggiano si scaricano, le donne che si sposano si caricano, ma gli uomini che si sposano si scaricano. Quello che l'ha messo lì, ma quello lì sistema tutto. E c'è Giacomo con la UU che fa la doccia, ma quello è il gorgonzola. Vedi che questo ci salva come Gesù di Nazareno. Andare, butta la pasta che siamo in tre. Se arriva marzo divento pazzo, fai il caffè, fallo per me, fallo per te, fallo per tre. Ma c'è la mela, ormai è marcia la mela, marcia la mela, ormai è marcia la mela. E questa è la mela di Francesco Tricarico, che ringraziamo per essere tornato con noi. E noi, per averci fatto sentire in anteprima il suo mela. Il suo nuovo singolo che uscirà martedì prossimo, il 16 giugno. Eravamo un po' spentarelli quando abbiamo registrato, è sempre strano sentirsi registrati. Sì, c'è sempre un ritmo diverso. Esatto. Cari ascoltatori, 800 24 00 24, vi aspettiamo ancora per giocare con noi ancora al personaggio della settimana. Tra poco ci risentiamo dopo il traffico, vai. Eccoci qua, di nuovo ben ritrovati, cari ascoltatori, da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Volevo ricordare una cosa, sì, a Elisa, che ci scrive un sms dicendo: compleanno di Guccini, niente da parte vostra. Che se non ci ascolti, abbiamo fatto un sacco di auguri ai 75 anni di Francesco Guccini. E se non ascolti dopo è difficile criticare, però. Nicola da Verona, buongiorno e benvenuto. Buongiorno Alessio, buongiorno Carlo. Buongiorno. Eccoci qua, Nicola, su cosa volevi intervenire? Personaggio? Volevo intervenire sul personaggio. Fantastico. Secondo me Dave Grohl, il cantante dei Foo Fighters. Perché? Perché venerdì al concerto di Göteborg è caduto dal palco alla seconda canzone e praticamente si è scusato col pubblico, ha detto che si assentava per un'ora ed è ritornato sul palco completamente ingessato a terminare il suo concerto con altre 24 canzoni. Eccolo qua, un bellissimo si può fare. Bravo. Un musicista che si spacca una gamba durante un concerto, chiede una piccola sosta e torna con la gamba rotta e finisce e canta tutto il suo concerto da seduto a Göteborg in Svezia, e quindi ci sembrava un bellissimo si può fare. E bravo all'ascoltatore, bravo a Nicola che ha indovinato, e vince il catalogo ufficiale di Expo Edito Gruppo 24 Ore. Grazie Nicola, complimenti. Grazie mille. Ciao, a voi. Buona domenica. Grazie, buona domenica. Era una piccola notiziola, ma insomma ci stava, no? Ci stava. Una piccola però notiziola, non ha però chiamato è nessuno bello. Per dire. Farinetti. E Cristoforetti. Cristoforetti. Che ci giusto, stava tutta pure giusto, lei perché sì, è rientrata, sì, Samantha. Ci stanno, assolutamente, assolutamente. No, però una piccola notizia, ma in realtà, insomma, una bella notizia. Ma tante volte per molto meno ci sono artisti e cantanti che annullano date e uno che invece addirittura si spacca una gamba durante il concerto dove avrebbe avuto tutte le giustificazioni del mondo per andarsene a casa o perlomeno al pronto soccorso, invece continua e fa il suo concerto. Adesso è il momento delle notizie sul crowdfunding. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere. Ciao Federico Tardia, buona domenica, ben ritrovato. Buona domenica. Ciao Federico. Ciao. Dove ci porti oggi? Oggi la prima storia è fantastica. Allora, la piattaforma Indiegogo, il progetto si chiama Funne, le ragazze che sognano il mare. La storia, sono 12 ragazze di 80 anni. Quindi già l'inizio è ottimo. Fantastico. 12 nonne che, a parte una che l'ha intravisto una volta durante il viaggio di nozze nel 57, non hanno mai visto il mare. Abitano ad Aone, che è un piccolo paese nelle valli del Trentino. Scoprono che in un'isola croata, di cui adesso non ricordo il nome, mi sembra Fluio o qualcosa del genere, il 5 di agosto si celebra la Madonna delle Nevi, che è la stessa Madonna delle Nevi che loro celebrano nel Trentino ogni 5 agosto. E quindi non hanno mai visto il mare, hanno voglia di partecipare a questa iniziativa, hanno lanciato un crowdfunding per raccogliere 3.000 euro necessari a soddisfare il loro sogno. No, io glieli do, guarda, anch'io Federica, è veramente stupenda questa storia. Però poi vorrei il video, questa cosa va documentata, è straordinaria. È straordinaria, poi hanno fatto anche un calendario in questo centro sociale che si chiama Rododendro per raccogliere qualche soldo. Le ricompense ovviamente sono coerenti con tutto il resto: 5 euro ti mandano la cartolina, 10 euro ti danno la spilla del centro anziani, 15 euro il calendario, ma attenzione perché dai 100 euro in su ti danno lezione di cucina, polenta di patate, crostata di mirtilli, spezzatino di cervo, o tramite lezioni live lì al loro centro, oppure anche via web. Ma è bellissimo, ma sono... Io voglio fare il tredicesimo, sono 12 splendidi ottantenni, voglio fare il tredicesimo e cenare con loro, faccio il Cristo. C'era il titolo di una famosissima trasmissione, non è mai troppo tardi, ma veramente, no, per fare delle cose che uno non ha mai fatto nella vita, tipo vedere il mare... E non è mai troppo tardi. Direi che noi aggiungiamo come redazione di Si può fare, che se riescono ad andare noi chiediamo un collegamento e parleremo con loro il 5 di agosto dall'isola. Onda, tra l'altro. Io tirerei giù la Claire di Si può fare dopo questa notizia qua perché è straordinaria. No, abbiamo invece il tempo per farne almeno un'altra, Fede. Allora, l'altra vi porta Ustica. Ustica, gli anni del diamante, ancora in Diegogo, stanno cercando 5.000 euro per realizzare un documentario sull'isola di Ustica, che io non lo sapevo, ma è stata dal 1971 al 2005 l'isola del Mediterraneo, è stata una sorta di mecca del baseball, c'erano ben due squadre su quest'isola che ha 1.000 abitanti, giocatori che hanno raggiunto anche le nazionali, che sono andate alle Olimpiadi e hanno scelto di fare un documentario su Ustica, conosciuta per la tragedia, ahimè, invece Ustica gli anni del diamante, un documentario per realizzare questa cosa assolutamente unica. Anche questa mi sembrava molto particolare perché è come sempre portare altri punti di vista e tramite il crowdfunding si può fare. La piattaforma è sempre Indiegogo, 5.000 euro per realizzare questo cortometraggio, questo documentario. Ci sono già delle immagini, Ustica, gli anni del diamante, ci sono delle foto di queste partite di baseball sull'isola che sono... Scusa, ma il diamante perché? Perché è il simbolo del baseball? No, sì, il diamante è il campo, non lo sapevo, sì. Vedi l'ignoranza a volte. Beh, comunque mi sembra molto bella anche questa di notizia, anche perché, come giustamente ricordavi tu, Ustica viene sempre subito, drittamente, solo associata alla strage, al D19 e a tutto quello che sappiamo o non sappiamo del 1980, quindi è molto buono. Invece stavolta. Mi sembra molto bello iniziare a ricordare Ustica anche per altre cose, per esempio il baseball. Grazie Federico. Ciao, buona domenica. Grazie. Ciao, grazie, buona domenica. Taddio, questa è la notizia del crowdfunding. Vi ricordo che se volete poi ritrovare i link di tutto li trovate sui nostri social, ma soprattutto sulla pagina di Si può fare, sul sito di Radio 24, dove tra pochissimo saranno pubblicati, anzi sono già pubblicati, tutti i testi con tutti i link, le musiche, la playlist di cui andiamo anche molto orgogliosi dal punto di vista musicale, e poi tra pochissimo anche il podcast della puntata di oggi. È tutto. C'è ancora del tempo, ma il mio book tour, in realtà io mi fermo a Milano praticamamente tutta la settimana. Il 17 giugno sarò a Zelig, il locale, intervistato a una manifestazione che si chiama Sex and the Zelig, dove parlerò ovviamente del mio libro Fossi in te io insisterei. Ci rivediamo però sabato e domenica prossima. Grazie a tutti, Milan Lucchetti, Claudia Schiattone, Andrea Piana che ha scritto con noi il programma, Alessandro Longoni in assistenza oggi, in redazione insostituibile Carmela Loricella. Ciao da Alessio Maurizio e da Carlo Gabardini. Buona domenica.